porta nanno adres noi chi tati si ti quanto pangon cui che rono si te cua tera tritoi chi pacan.